24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le dichiarazioni della cancelliera tedesca Angela Merkel, che parla apertamente di un'unione politica a livello europeo e ipotizza un'Europa a due velocità. La Merkel ha incontrato il premier britannico David Cameron. Il premier italiano Mario Monti si dice fiducioso in vista del prossimo summit europeo, mentre per il presidente della Fed, Ben Bernanke, la crisi continentale pone significativi rischi per gli Stati Uniti. Scontro aperto tra Europarlamento e Consiglio sulle modifiche a Schengen, mentre tutto è pronto per il via oggi degli Europei 2012, l'edizione più ricca della storia. Also ich habe von meiner Seite aus seit über einem Jahr einen Bürgerdialog geführt, weil ich denke, dass die Menschen. Quella che state ascoltando è la voce della cancelliera tedesca Angela Merkel, mentre il presidente americano Barack Obama richiamava l'Europa a un maggiore impegno per contrastare la crisi, la Merkel annunciava in un'intervista la presentazione di un piano di lavoro per l'unificazione politica europea. Noi diciamo, ha affermato la cancelliera, che non abbiamo solo bisogno di un'unione monetaria, ma che serve anche una cosiddetta unione fiscale. Ma soprattutto, ha continuato la Merkel, abbiamo bisogno di un'unione politica, il che significa che dobbiamo dare più competenze all'Europa. La cancelliera ha poi aggiunto di essere a favore di un'Europa a due velocità se alcuni paesi rallentano l'Unione. Per la Merkel il vertice europeo non potrà comunque risolvere tutti i problemi dell'Eurozona. L'Unione Europea non ha problemi con la mancanza di responsabilità, ma con il fatto che a volte prova a correre prima di aver imparato a camminare. A dirlo il premier britannico David Cameron in un incontro pubblico con alcuni studenti universitari a Berlino. E il presidente del Consiglio Mario Monti è fiducioso dei riscontri degli ultimi giorni e delle ultime ore sul fatto che in Europa stia emergendo il senso dell'urgenza di prendere decisioni difficili e importanti che facciano evolvere la costruzione comune. Così Monti in una videoconferenza con il congresso dell'ACRI a Palermo. La crisi del debito europea pone significativi rischi agli Stati Uniti, lo afferma il presidente della Fed Ben Bernanke in un'audizione alla Commissione Economica Congiunta del Congresso americano. La Fed è pronta a tutelare il sistema finanziario e lavora duro per assicurarsi che le banche siano in grado di resistere a eventuali contagi dall'Europa. Non c'è alcuna richiesta di assistenza all'Unione da parte delle autorità spagnole, quindi non c'è alcun piano di salvataggio. Così il portavoce del commissario agli affari economico-monetari Olli Rehn, riferendosi alla difficile situazione del settore bancario nel paese. Le sofferenze delle banche iberiche raggiungeranno gli 80-112 miliardi nel periodo 2012-2013. Questa è la stima di Standard & Poor's, che in un rapporto evidenzia come la doppia recessione accelererà l'accumulo di assets a rischio. L'agenzia calcola che 60 miliardi di perdite potrebbero venire assorbiti dagli stessi istituti, mentre altri 10 verrebbero coperti dal fondo di garanzia della Spagna. Chiusura e rialzo per le borse europee, confortate dalla decisione della banca centrale cinese di tagliare il costo del denaro per sostenere la seconda economia del mondo. Il buon esito dell'asta spagnola e le parole del numero uno della Fed, Ben Bernanke, hanno inoltre favorito gli ordini in acquisto. Milano ha terminato le contrattazioni in progresso. Chiusura e rialzo per le borse europee, confortate dalla decisione della banca centrale cinese di tagliare a sorpresa il costo del denaro per sostenere la seconda economia al mondo. Il buon esito dell'asta spagnola e le parole del numero uno della Fed, Ben Bernanke, che ha continuato a parlare di crescita, hanno inoltre favorito gli ordini in acquisto. Milano ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,88%, mentre Parigi è salita dello 0,42% e Londra dell'1,18%. Francoforte ha fatto più 0,82%. Sono andate bene le azioni delle banche, mentre hanno sofferto le A2A, meno 2,5%, nell'attesa della nomina del consiglio di gestione. Gli ottimi conti del gruppo Prada hanno di nuovo infiammato le azioni del lusso, come Ferragamo, più 4,6%. Sono inoltre state gettonate le Mediobanca, più 3%, dopo che il finanziere Vincent Bolloré ha espresso la volontà di rafforzare la propria quota. Telecom Italia ha riconquistato la soglia di 71 centesimi salendo dell'1,57% grazie all'apertura della cassa depositi e prestiti a una collaborazione sulle reti fisse di nuova generazione. Fuori dal paniere principale infine si sono infiammate le RCS più 23,5% sulle indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore dell'imminente cessione della controllata Flammarion. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. I paesi membri dello spazio Schengen si sono accordati a Lussemburgo sulla possibilità di ristabilire in via temporanea i controlli alle frontiere interne in caso di flussi migratori eccezionali verso una delle frontiere esterne. Ad annunciarlo la presidenza danese dell'Unione. L'accordo è stato raggiunto all'unanimità, parere contrario della Commissione Europea. Durissimo invece l'Europarlamento. I governi hanno intrapreso una direzione sbagliata nella riforma della governance di Schengen e dovranno dare spiegazioni all'Europarlamento. Parlamento. L'Unione Europea è profondamente colpita dalla riforma pensionistica e vuole esprimere supporto e appoggio per la riforma del lavoro all'esame del Parlamento. A dirlo il commissario europeo all'occupazione Laszlo Andor in una conferenza stampa con il ministro del lavoro italiana Elsa Fornero. Sentiamo Alessandra Schepisi. Dell'Europa alla riforma del lavoro, il commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali e l'integrazione Laszlo Andor ha lodato le politiche sociali e dell'occupazione portate avanti dal governo Monti. Siamo rimasti molto colpiti dalla riforma delle pensioni e consideriamo quella del lavoro come fondamentale per affrontare il problema dell'occupazione e della crescita. Il commissario europeo si è anche detto preoccupato per il tasso di disoccupazione giovanile che in Italia è più alto della media UE, ma questa è una riforma giunta che può creare maggiore dinamismo nel mercato e risultare cruciale per i giovani e per le donne. Poche parole invece da parte del ministro del welfare Fornero. I problemi dell'Italia, ha detto il ministro poco prima di dare la parola al commissario, non sono piccoli e non riguardano solo noi ma l'intero scenario europeo. La strada da percorrere è quella della collaborazione. Il ministro a sorpresa non ha però risposto alle domande dei giornalisti. E da Roma è tutto. I ministri dei trasporti europei hanno approvato il regolamento Connecting Europe Facility e il regolamento sul sistema satellitare Galileo, che daranno un forte impulso alla ripresa dell'economia continentale e allo sviluppo delle reti di trasporto. Così il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Mario Ciaccia. Condanna della Corte Europea dei Diritti Umani all'Italia per l'ormai annosa questione delle frequenze dell'emittente televisiva Europa 7, il servizio. Si è concluso oggi con la sentenza di Strasburgo il contenzioso che condanna l'Italia a pagare un risarcimento ad Europa 7 per danni materiali e morali. L'emittente televisiva dell'imprenditore Francesco Di Stefano, pur avendo ricevuto la concessione legale nel 99, per 10 anni non è mai stata in grado di trasmettere. Secondo la Corte di Strasburgo, nel non assegnare le frequenze a Europa 7, le autorità italiane non hanno rispettato l'obbligo prescritto dalla Convenzione europea di mettere in atto un quadro legislativo ed amministrativo per garantire l'effettività pluralismo dei media. L'Italia è stata quindi condannata per aver violato il diritto alla libertà d'espressione e deve ora pagare ad Europa 7 10 milioni di euro. Un risarcimento che non soddisfa però l'imprenditore Di Stefano, che aveva chiesto più soldi. Non copre nemmeno il 10% dei costi da me sostenuti. I mancati ricavi per 10 anni di impossibilità a trasmettere sono molti soldi. Noi li avevamo valutati in 2 miliardi, loro potevano valutarli anche in 200-300 milioni, ma non in 10 milioni. Per quanto mi riguarda, non è un successo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo allo sport, iniziamo però con l'economia legata allo sport. La crisi che sta investendo la Spagna sta per abbattersi anche sul calcio. Doveva accadere. In Spagna i tifosi del calcio se lo aspettavano da tempo. La crisi economica sta per diventare anche la crisi dei club del football iberico, a cominciare dalle due grandi per eccellenza, Real Madrid e il Barcellona. Le banche, le casse di risparmio che in questi anni avevano garantito i finanziamenti per comprare e pagare gli ingaggi di Cristiano Ronaldo e Kakà, di David Villa e Alexis Sanchez, hanno finito i soldi. La stessa banchia, la banca nata da Caja Madrid e poi nazionalizzata, la banca nei cui bilanci si è scoperto un buco da 20 miliardi di euro, era tra i grandi finanziatori di Real Madrid e di altre società minori. Dopo aver messo in ginocchio le famiglie, aver costretto le imprese a chiudere, con la disoccupazione al 25%, con il sistema bancario in default e con i mercati in pressing, lo stesso governo è vicino a chiedere il salvataggio internazionale. E allora doveva accadere. La crisi economica costringerà anche le società di calcio spagnole a ridimensionare, almeno per qualche tempo, le loro ambizioni. Inevitabile dopo i tagli alle pensioni, le tasse e tutte le misure di austerity introdotte per contenere il deficit nazionale. E così, mentre il premier Rajoy chiede aiuto all'Unione Europea, che prepara un piano di 80 miliardi per le banche, si viene a sapere che le stesse banche, per ottenere risorse fresche dalla Banca Centrale Europea, hanno dato in garanzia proprio le linee di credito concesse ai club, in pratica i grandi campioni. E in caso di insolvenza dei club, un'ipotesi ancora lontana ma verosimile se la recessione dovesse durare a lungo, i grandi campioni da Ronaldo a Messi potrebbero diventare di proprietà della stessa BCE, con Mario Draghi allenatore. Luca Veronese, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Al via oggi gli europei di calcio ed è già tempo di stime economiche. Da un'indagine realizzata da StageUp si calcola che Polonia-Ucraina 2012 sarà la più ricca edizione di sempre dei campionati europei di calcio. La vendita dei diritti di trasmissione frutterà 840 milioni di euro, il 4,8% in più rispetto agli europei 2008, mentre gli incassi da attività commerciali, incluse le sponsorizzazioni, si attesteranno a 290 milioni, in calo dell'1,4%. Crescono gli incassi da biglietteria. La presenza di 1,4 milioni di spettatori garantirà 125 milioni milioni di euro, il 24% in più dell'ultima edizione. E la Commissione europea ha ribadito che nessuno dei suoi responsabili sarà presente a partite degli europei di calcio in Ucraina. La portavoce di Bruxelles ha tuttavia precisato che all'inaugurazione di Euro 2012 sarà presente il commissario alla programmazione finanziaria e al bilancio, il polacco Janusz Lewandowski. È tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.